manchi tu nell'aria, Doria, manchi ad una mano, Doria, che lavora piano, Doria, e manchi a quella bocca, Doria, che cibo più non tocca, Doria, è sempre questa storia, Doria, che lui mi chiama Doria, Doria, Doria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome thank you.